Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. È una mattinata come tante altre, quella del 9 maggio 1997. C'è il sole. Due ragazze camminano vicine percorrendo i viali dell'Università La Sapienza di Roma, affollati di studenti. È tempo d'esami e le due amiche parlano animatamente tra loro. Ora le parole precise non me le ricordo, però Marta, ecco, insisteva, diceva che insomma gli appunti li dovevamo usare insieme e quindi proprio per questo insomma doveva pagare anche lei, insomma. Io dicevo no e lei insisteva. Io ho capito che era un colpo d'arma da fuoco. Io non so cosa guardavo in quel momento, probabilmente guardavo per terra. Con la coda dell'occhio ho visto le gambe di Marta già per terra. Io ho avuto un attimo di paura, panico. Mi sono abbassata come per nascondermi tra le macchine. Sono passati, ecco, altri secondi. Io non vedevo Marta e allora ho ripercorso quella parte del marciapiede che avevo fatto e sono arrivata nel momento in cui Marta aveva gli occhi sbarrati. In quel momento la chiusi. Io l'ho chiamata, ma non mi ha risposto e non si è mossa. Io sono rimasta ferma lì in quel punto. Questo è un brano preso da Un giorno in pretura, trasmissione Rai che si occupa comunque di vicende processuali, la testimonianza di Yolanda Ricci, che parla dell'istante in cui si è resa conto che era morta, era stata colpita da un colpo di pistola, l'amica Marta Russo. Era il 9 maggio 1997, una studentessa modello, una bella ragazza, la figlia che tutti avrebbero voluto avere, è stata inspiegabilmente uccisa da un colpo di pistola. Nell'Università della Sapienza di Roma, uno degli atenei più famosi d'Italia. Un caso che appassionò gli italiani e divise gli italiani, come sempre accade in questi casi, in due fazioni, perché le prime indagini, poi tutta la vicenda processuale, si concentrò su quelli che allora erano due giovani ricercatori, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, erano due assistenti della facoltà di filosofia del diritto, che sarebbero stati i responsabili di quell'omicidio. Sono passati molti anni, la vicenda viene ripresa in mano da un libro e viene analizzata diciamo in un momento in cui l'opinione generale è concentrata su altri tipi di vicende, su altri tipi di questioni processuali, ma vale la pena di riprendere in mano il caso Marta Russo per coloro che al tempo ne furono emotivamente coinvolti e per coloro che probabilmente è la prima volta che la sentono nominare, perché la loro circostanza anagrafica non permette che abbiano vissuto personalmente in pieno l'aspetto mediatico e l'aspetto di generale attenzione pubblica al caso Marta Russo. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. In nome del popolo italiano. Visti gli articoli 521, 533, 535, 538, 539, 540 del codice di procedura penale, dichiara Scattone Giovanni colpevole del delitto previsto e punito dell'articolo 589 del codice penale, omicidio colposo. Lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione e lire 2 milioni di multa. Dichiara Ferraro Salvatore colpevole del delitto previsto e punito dall'articolo 378 del codice penale. E lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione. 7 e 4 anni contro i 18 chiesti dalla procura. La sentenza arriva dopo quasi 30 ore di camera di consiglio. Che sia condanna lo si capisce subito, lo capiscono al volo anche gli imputati, ricercatori universitari. A sparare secondo la Corte è stato Scattone, come ha sempre sostenuto l'accusa, ma sparisce la volontarietà di quel gesto. È omicidio colposo. Scattone insomma non voleva sparare né tantomeno uccidere. E Ferraro non è il suo complice, è solamente colpevole di favoreggiamento. L'Italia è il paese dei grandi processi, dei grandi delitti e delle soluzioni che poi rimangono sempre appese nella certezza dell'opinione pubblica, e probabilmente di là delle certezze processuali, nell'opinione generale che ha vissuto quell'episodio rimane ancora una sorta o di forte pregiudizio totalmente svincolato all'esito della sentenza o di perplessità rispetto a un caso che in sé non ha spiegazione. Chi ha provato a risalire il resoconto, il racconto, la cronaca precisa anche di quello che probabilmente è meno passato attraverso le maglie dell'informazione del tempo e della storia processuale è un collega, è Mauro Valentini. Valentini, buongiorno. Buongiorno. Che è un giornalista appassionato appunto dell'inchiesta, ne ha fatte parecchie, ha parlato dell'omicidio di Antonella Di Veroli nel 2014, la storia di Francesca Moretti nel 2015, ha appena pubblicato un libro, Marta Russo, Il mistero della sapienza, Sovera Edizioni. Allora, innanzutto, qual è la molla che ti ha portato a riprendere in mano un caso di cui non parla più nessuno, se non un anno fa esattamente è ritornato per un attimo alle cronache, ma era già qualcosa di... Perché se ne è parlato un anno fa di Marta Russo nuovamente? Esatto, quella poi è la mia molla con cui ho iniziato poi a... Hai deciso un anno fa di riprendere in mano? Ho deciso proprio un anno fa e diciamo il lavoro è durato un anno, perché mi aveva molto colpito la reazione emotiva da parte dell'opinione pubblica rispetto alla possibilità che Giovanni Scattone diventasse insegnante di ruolo in un liceo. Avevo ottenuto una cattedra in un liceo. Sì, dopo anni di sostituzione lui aveva ottenuto la era cattedra. Era suo pieno diritto, quindi... È nel suo pieno diritto perché la Cassazione aveva cancellato la interdizione, quindi lui poteva assolutamente... Era giusto che lo facesse perché era suo diritto. No? Per la legge assolutamente sì, però ci fu un grande movimento non solo da parte della famiglia, comprensibile, la famiglia Marta Russo, ma anche da parte di cittadini indignati. Mi sono interessato e mi sono anche detto: possibile che in un paese che sembra un po' dimenticare tutto, questa storia invece è rimasta viva, è una ferita ancora aperta, no? Nell'opinione pubblica. E quindi sono andato a cercarmi le carte, ho cercato di fare, in realtà all'inizio volevo fare anche soltanto un'inchiesta. Erano passati 17 anni dalla sentenza, il nostro è un paese che ha pochissima memoria rispetto, diciamo, colpevoli e innocenti. E sì. Dopo 17 anni dalla sentenza ancora c'è un'opinione pubblica che diceva comunque non può fare il professore. La storia di Marta ha colpito l'opinione pubblica più di tanti altri, è una storia quasi simbolo. Ed è anche il primo, forse, vero grande processo mediatico dove tutti abbiamo assistito a un giorno in pretura. La voce che abbiamo sentito prima era appunto tratta da giorno in pretura, addirittura in prima serata. E c'era un interesse spasmodico all'epoca e c'è ancora perché questa è una storia che appunto... C'è un movente razionale, diciamo almeno, non c'è un movente razionale. A seconda di seguendo questo processo c'è un processo. Allora, vediamo di analizzare il contesto. Marta Russo chi era? Marta Russo era una studentessa in giurisprudenza al secondo anno. Era lì il 9 maggio del 97 per seguire due lezioni, una che finiva alle 11 e una che iniziava a mezzogiorno. In quel lasso di tempo fa delle cose, dopodiché decide di andare a un edificio che si trova fuori la facoltà e quindi prende per puro caso quella stradina che è una sorta di corridoio davanti al rettorato per uscire da giurisprudenza ed uscire proprio dall'università. Diciamo che è una specie cittadella universitaria, la Sapienza, qui ci sono sempre studenti, facoltà, lezioni, sì. È un luogo in cui è facilissimo vedere gente che circola, è un luogo affollato. In quel luogo lì abbiamo calcolato circa 200 persone c'erano. Marta e la sua amica Yolanda Ricci percorrono quel vialetto e Marta viene colpita alla testa alle 11.42, viene colpita alla testa da un proiettile artigianale, si dirà, cioè è un proiettile non di quelli militari o di piccolo calibro, e anche di un materiale che ha sorpreso poi dopo i periti. Questo proiettile colpisce la ragazza, 3 giorni di coma irreversibile e poi la donazione degli organi da parte della famiglia e la morte. Quindi fu anche un aspetto lancinante, si seguiva appunto l'agonia di questa ragazza, la speranza potesse vivere, la donazione degli organi, ma soprattutto il volto della ragazza, l'iconografia della ragazza era struggente, una ragazza molto bella, molto carina, angelica, non che questo tolga nulla alle ragazze che non sono belle, carine, angeliche, ma facilmente iconizzabile in una vicenda giornalistica che prometteva molto clamore, ma il vero clamore è arrivato quando si è cominciato a parlare di presunti colpevoli. Sì, all'inizio ci sono due o tre piste che prende la Digos, perché il 9 maggio è l'anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, pochi giorni dopo, ma c'è qualcuno che si sbaglia e lo associa all'omicidio di Giorgiana Masi, avvenuto esattamente 20 anni prima. Quindi sembra quasi una sorta di... poi anche con circostanze molto simili, una calibro 22, un proiettile sparato alla cieca. È diventato un simbolo. A Roma c'è una lapide sul ponte a Trastevere dove è stato ucciso Giorgiana Masi, il periodo in cui Cossiga era ministro degli interni, se non sbaglio. Si diceva fosse un poliziotto con un'arma non ufficiale che ha sparato sui manifestanti. Insomma, era un momento molto caldo. 20 anni esattamente, 20 anni dopo, Roma si ritrova ad avere... a rivivere questo incubo. Dicevi della particolarità della ragazza, una ragazza che era una ragazza modello, aveva tutti grandissimi voti all'università, era una ragazza che aveva scelto addirittura proprio di sposare completamente la strada della magistratura, insomma, come hai detto tu, era proprio la figlia che tutti vorrebbero avere, e quindi probabilmente la perfetta rappresentazione tutto. Della ragazza modello. Esatto, di quello che è il desiderio di ogni genitore. In questa versione che associava il caso Giorgiana Masi, cioè il contrasto forte fra antagonismo e stato vessatorio, diciamo, stato nel senso di governo, rappresentanza, potere, via dicendo, portava a pensare fosse stata una vittima prescelta, cioè hanno scelto l'esatta antitesi della giovane rivoluzionaria uccisa sul ponte a Trastevere? Questo non arriva, però gli inquirenti, forse abituati proprio a ragionare in quel modo, nonostante gli anni di piombo fossero finiti, iniziano immediatamente a fare un discorso politico, tant'è che la Digos è la prima di intervenire, vogliono fare tutta una serie di supposizioni che riguardano quello. C'erano anche state delle minacce ai giovani di sinistra nell'università, tant'è che loro vanno subito a dire forse eravamo noi l'obiettivo. Insomma, all'inizio c'è un gran caos, ma poi il caos a un certo punto si focalizza, dopo aver trovato tantissimi personaggi che a vario titolo lì, tra uomini delle pulizie e bibliotecari con la passione delle armi, che potevano essere una pista importante, ci si concentra sulla finestra dell'aula 6 di filosofia del diritto. C'era stata una perizia balistica che aveva individuato il luogo dello sparo da quella finestra. C'erano diverse finestre con la stessa particella di bario e antimonio. Perché viene usata? Ci si focalizza su quello? Perché dentro a l'aula 6 c'era un telefono e facendo un controllo delle telefonate ci si accorge che un minuto e mezzo dopo circa era partita una telefonata a casa del professor Nicolò Lipari. Quindi probabilmente l'aveva fatta la figlia che era assistente di filosofia del diritto, collega di Scattone e di Ferraro. Maria Chiara Lipari viene chiamata perché il pubblico ministero ha questa intuizione, cioè lei sicuramente ha visto chi ha sparato, perché era lì un minuto dopo la caduta di Marta a terra. Quindi fra i possibili luoghi in cui si poteva aver sparato, quello che è stato preso in considerazione è quello a cui partì una telefonata nell'immediata circostanza temporale in cui sarà stato sparato. Entrando lì, che cosa vede, diciamo, come primo flash, diciamo così? Io vedo una persona che corrisponde a Salvatore Ferraro sull'asse, e questo me lo ricordo, l'identità e il viso, io l'ho ricordato qualche giorno dopo il primo interrogatorio, e cioè il sabato mattina ho avuto il lampo con il viso, diciamo, e poi voltandomi verso il telefono ho invece notato presenze più spostate verso il centro della stanza. Questa è la testimonianza, la deposizione, diciamo, in aula appunto della dottoressa Maria Chiara Lipari, che racconta quello che ha visto. Cosa accade? Però invece mi sento di dire che le testimonianze erano tutte condizionate, o comunque condizionabili, perché Maria Chiara Lipari dirà poi a processo, in questo stesso audio che hai mandato, dirà che il pubblico ministero, il procuratore aggiunto Italo Ormanni, in qualche modo l'aveva minacciata di dire qualcosa nei confronti anche del padre. Si scoprirà che l'altra testimone, che è Gabriella Alletto, aveva un certificato di invalidità che i pubblici ministeri volevano riscandagliare. Insomma, Maria Chiara Lipari arriva, ma questa testimonianza che noi sentiamo, che sembra molto circostanziata, arriva mesi dopo, perché all'inizio lei non ricorda i nomi di chi c'è dentro e farà tra l'altro un nome di un assistente che non era poi presente a Roma, ma che lei ricordava all'inizio. Allora, fermo un attimo Mauro Valentini, dobbiamo dare la linea brevemente per una piccola pausa. Ricordiamo che questa è una circostanza ancora di più che rende misterioso, intricato e dà spazio ai complotti questa vicenda. Si mettono le mani comunque in un'intricata vicenda di parentele, di amicizie, di pressioni, insomma il ritratto medio dell'università italiana esce fuori e viene lambito una vicenda, a me, molto drammatica e molto tragica. Fra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Niente, sono entrata avendo visto Francesco Liparota per primo, mi sono rivolta a lui volendo chiedere a Francesco se sapeva dove stava la Lipari. Mi sono rivolta verso di lui, quindi ero un po' vicina a lui perché si trovava a sinistra della stanza. E invece nel girarmi, o per meglio dire mi stavo girando, ho visto prima il dottor Ferraro che stava davanti alle scrivanie che si trovano tra il muro delle due finestre. E anche il dottor Scattone sotto la finestra, aveva quasi le doche davanti della finestra, e in quel momento è stata un bagliore, un tonfo quasi contemporaneo, e insomma tra la coda dell'occhio e il girarmi ho visto questo. Riprendiamo in mano il filo di una vicenda intricata, una vicenda che processualmente ha avuto una fine, ma in realtà nell'emotività generale è una vicenda infinita, una vicenda che ancora ha dei punti inspiegabili. Risale al 97, maggio 97, l'omicidio Marta Russo. Ne sto parlando con Mauro Valentini, che ha scritto un libro su questo, Marta Russo, il mistero della sapienza. Quella che abbiamo sentito è una deposizione di Gabriella Alletto, in cui vengono fatti nomi precisi. Ecco, abbiamo delineato il profilo della protagonista, ahimè, di una vicenda. Parliamo degli altri due protagonisti, Scattone e Ferraro. Chi erano? Nella percezione generale erano l'antitesi, giovani promettenti, spavaldi, appartenenti a un'alta aristocrazia borghese romana, che avevano addirittura questa sorta di quasi idea nicciana di provare sul campo l'idea che potesse esistere, loro ricercatori appunto di filosofia del diritto, la possibilità di fare un delitto perfetto. Questo è almeno quello che rimane a me nella mia memoria. Vediamo di rettificarlo con i fatti. Beh, sì, innanzitutto loro non vengono accusati di questo, o meglio, il quadro, diciamo, indiziario porta per esclusione, visto che non c'era proprio un movente per sparare, a una idea appunto di superuomo. Si cercano documenti, innanzitutto si dà in pasto ai media questo concetto di azione per dimostrare che il delitto perfetto esiste, che c'è una teoria del superuomo, che loro sono superiori rispetto agli altri. Però poi nella pratica non ci si trova mai in una prova del genere. Vengono intervistati e interrogati gli studenti, che diranno che non hanno mai sentito questa cosa. Vengono sequestrati tutti gli appunti, vengono controllati tutti gli appunti, ma non c'è negli appunti questo tipo di cosa. Tra l'altro loro erano assistenti. Pensiamo che nel 97 l'Italia ancora scriveva a mano, Windows 95 era appena entrato, ma non certo nell'Ateneo della Sapienza. Non esistevano i social network, l'email usava un numero piccolissimo di persone, quindi le prove erano pezzi di carta scritti. Gli appunti erano lì, tra l'altro c'erano delle dispense che erano redatte dal professor Carcaterra, perché loro erano assistenti del professor Carcaterra e non c'erano nessuno, tant'è che il professor Carcaterra dirà, difenderà i due studenti, non dico tanto dall'azione criminosa perché non poteva, ma certamente li difende da questo tipo di accusa, cioè di questa sorta di azione da superuomo. Non ci sono prove, tra l'altro delle prove che vengono trovate sono anche tra virgolette comiche. C'è una, io l'ho riportato nel libro, c'è una traduzione di una canzone di Bob Dylan che è License to Kill, Ferraro la traduce come licenza di uccidere, ci mette sotto gli accordi, insomma fa, perché lui suonava in un gruppo e viene sequestrata e viene detto questa è una prova regina. Loro avevano teorizzato anche musicalmente licenza senza sapere che era la traduzione di una canzone di Bob Dylan, ma loro questo è importante, però lo sai, perché diamo la percezione alle giovani generazioni che ci ascoltano come si è cambiato il tempo. Tu pensa, fosse accaduto oggi sarebbero stati comunque geolocalizzati dal loro cellulare e quindi allora tutto più difficile, avrebbero avuto dei social, il profilo Facebook dove potevi andare a cercare quello che volevi, sarebbero state mille altre maniere. Allora ci si basava soltanto sui pizzini che si trovavano a casa delle persone, diventando prova regina. Esatto, ma questo infatti questo diventa un processo che si tenta di far diventare tecnologico, perché arriveranno delle apparecchiature sofisticatissime per cercare di capire da dove è partito il colpo, addirittura con dei caschi messi in testa a una ragazza che era alta quanto Marta, sì, con me un la ricordo laser, per questa qua, con un laser, e poi si scoprirà l'incidente che probatorio fu una cosa, una ragazza col casco con i laser hollywoodiana, sì. Però alla fine trovare uno che aveva la stessa taglia, la fecero camminare con il casco in testa. Però la cosa terribile fu che più facevano prove e più aumentavano il numero delle finestre possibili. Quindi ecco, però la testimonianza che abbiamo sentito di Gabriella Aletto, sì, parla di due persone che lei ha riconosciuto. Gabriella Aletto se le ricorda il 14 giugno, quindi un mese e cinque giorni dopo. Perché quando per tutti 13 comunque sapevano già che queste persone erano coinvolte. No, le coinvolge lei. Ah, quindi è la prima. Lei è la prima ed è l'unica all'inizio, perché quello che abbiamo sentito di Maria Chiara Lipari arriva dopo, arriverà addirittura dopo. Ma lei un mese e cinque giorni dopo si ricorderà immediatamente, farà il nome di Scattone. Ferraro aveva cominciato un po' a circolare tra gli interrogatori, quello di Scattone mai. Lei si ricorderà di questi due personaggi dopo che per 13 o anche di più interrogatori lei aveva negato di essere proprio andata dentro l'aula 6. Allora sentiamo la seconda parte della sua deposizione. Ci dovrebbe dire cosa ha visto, signora? Io ho visto Ferraro mettersi le mani nei capelli, entrambi le mani. E Scattone che Ferraro si è messo le mani nei capelli contemporaneamente allo sparo? Contemporaneamente, io direi. Dopo qualche secondo, un secondo o due. Ma con la faccia che era ancora rivolta verso la finestra? Con la faccia che era rivolta verso di lei? No, non verso di me. No, non era girato verso di me. Quindi le mani le ha messe sulla nuca? Lei vedeva la nuca? Le mani le ha messe sulla nuca. Lui portava i capelli all'indietro, non li ha mai portati così. Ok. E Scattone? E Scattone si scostava le toghe della tenda con la mano sinistra e la destra la ritraeva. Senta, ha sentito discutere? No. Ha sentito un rimprovero da parte di Ferraro nei confronti di Scattone? No. Non hanno detto nulla? Nessuno. No, non hanno detto nulla, anche perché è stata quasi immediata l'entrata della dottoressa Lipari. Allora, Mauro Valentini, qual è stato poi il peso reale nel processo di questa testimonianza? È la prova decisiva. Quindi una testimone li ha visti, stavano nella finestra in cui si pensa che sia sparato, quindi alla fine hanno buoni elementi, diciamo. Il processo lascia praticamente a un certo punto, durante, soprattutto dopo il secondo grado, lascia proprio da parte le perizie, che sono state, come abbiamo detto prima, spettacolari, per fondarsi solo ed esclusivamente sulla testimonianza di Maria Chiara Lipari, che vede Gabriella Aletto dentro a quella stanza, di Gabriella Aletto che vede i due sparare, e quindi questo è il percorso accusatorio. Beh, a tutti gli effetti c'è un testimone oculare che l'ha visti. La perplessità sta nel fatto, almeno la mia, non solo nella ricostruzione che poi insomma io ho spiegato essere abbastanza piena di punti oscuri, ma nel fatto che la signora Aletto dice questo, lo dice dopo appunto abbiamo detto 37 giorni, ma lo dice dopo un interrogatorio dell'11 giugno, quindi tre giorni prima, in cui è stata fatta c'è una videocassetta che poi girò e diventò famosissima, addirittura mandata da Panorama in due edizioni, prodotta da Panorama, fatta vedere su tutti i telegiornali e tutti i giornali, dove in questa videocassetta si ritrae la signora Aletto che spergiura che si dispera dicendo che lei non c'era proprio stata, giura sui figli, insomma fu anche un oggetto di un grande movimento da parte per esempio del presidente della Camera Violante che stigmatizzò moltissimo i metodi di interrogatorio di un teste. Lei non era imputata, allora, lei era un teste. Mauro, siccome tu hai scritto un libro, una tesi l'avrei sposata, senza noi volerci sbilanciare né del partito innocentista che è stato potente, né di quelli che naturalmente presi dalla partecipazione del lutto in maniera incondizionata stanno alle parti della famiglia di Marta Russo. Ecco, quali sono i punti oscuri? Perché una sentenza che in fondo è basata sulla testimonianza oculare, l'ha visti lì dentro, se il testimone viene dato per attendibile non se ne esce. Quali sono invece le cose che non ti hanno convinto? Allora, innanzitutto nella dinamica che viene fuori ufficiale da parte della sentenza, dove si dice che i due hanno sparato per errore, o meglio, uno ha sparato per errore, l'altro lo ha guardato e lo ha favorito, lo ha praticamente... Loro hanno sempre negato comunque. Loro hanno sempre negato. Ma è anche di stare nella stanza o... loro hanno negato di essere all'università, Ferraro non c'è, dice che non c'è mai stato... Scattone dice che ci è arrivato in facoltà ma all'una, quando ormai era già... Insomma, ecco, sentiamo allora la deposizione di Ferraro. Quel 9 maggio, che fu il terribile giorno in cui Marta Russo fu ferita mortalmente, per me, almeno quella mattinata, fu una giornata incredibilmente normale, di routine, di studio. Quel giorno ero a casa a studiare, l'ho sempre detto, l'ho sempre affermato. Ero a casa, dopo le prime pratiche mattutine, mi sono messo davanti a un libro. E quando si studia si sta davanti a un libro, in compagnia dell'interesse o il disinteresse che questo libro può produrre, del piacere o il dispiacere. Telefonò Marianna Marcucci, come già dissi. Telefonò un amico, Domenico Albanese, Mimmo Albanese. Telefonò anche Domenico Condeni, ho già parlato di questa telefonata. Intorno a mezzogiorno meno 20, meno un quarto, ma non posso essere preciso. Venne a trovarmi Marianna Marcucci ogni tanto mi viene a trovare. Allora, noi ci fermiamo un istante, però Mauro Valentini, fra un secondo, quando riprendiamo la linea, dovrei farmi capire, raccontandomi appunto quello che il rigore processuale, perché non sono state prese per buone le persone che hanno telefonato nell'orario in cui potevano rappresentare un alibi a casa appunto di Salvatore Ferraro. Ma fra un secondo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Riprendo il filo allora di quello che stavamo dicendo. Ho chiesto a Mario Valentini, dopo la deposizione che abbiamo ascoltato di Salvatore Ferraro, perché non sono state prese per buone, diciamo, le prove che aveva portato lui a supportare il suo alibi che fosse a casa nel momento del delitto. C'è un buco di telefonate tra le 11:10 circa e mezzogiorno e 50, quindi diciamo che nel mentre non ci sono delle prove diciamo decisive per dire che lui era a casa. Ci sono delle testimonianze, Marianna Marcucci è una di quelle che dice che è stata a casa con lui, però verrà poi accusata di favoreggiamento e quindi si avvarrà della facoltà di non rispondere, perdendola praticamente come testimone a favore. Anche Giovanni Scattone non ha un alibi preciso, dirà sempre a processo: ma io sono uscito di casa ma non dovevo crearmi un alibi, ero sereno. Lui abitava accanto all'università comunque, Ferraro abitava abbastanza vicino all'università, Scattone no, abitava all'EUR. E Giovanni Scattone per esempio ha un documento che mostra che lui fa alla segreteria di lettere che chiudeva a mezzogiorno, lui ci arriva quasi alla fine, è possibile, ma non è certo che lui a quell'ora poteva essere anche lì. Non vengono creduti per la debolezza dei personaggi che dovrebbero testimoniare a favore, primo tra tutti questo Domenico Condemi che lui cita in questa clip che hai fatto sentire, perché Domenico Condemi aveva dei problemi anche a livello processuale. Quindi era non indiziato, è stato, insomma, non è stato, non è stato testimone attendibile. L'aspetto balistico, l'associazione all'uso delle armi, al maneggio delle armi con i due imputati. Che legami ci sono? Non perché c'è. Niente, quindi non è una persona che abitualmente usassero pistole, armi, possedessero pistole. Se sono stati loro, hanno fatto questa cosa dopo, cioè praticamente, come dire, uscendo fuori dal nulla, cioè prendendo una pistola e sparando e basta, non facendola scomparire poi. E facendola scomparire, che forse è la cosa più semplice, se tu hai detto il proiettile aveva delle particolarità, cosa vuol dire? Era stato, diciamo, artefatto per essere più letale? Qual era la particolarità? No, la sensazione che ho avuto tra le tante perizie che sono state scritte è che il proiettile fosse letale in maniera involontaria, cioè era così fatto male. Così di bassa qualità, che però paradossalmente frantumandosi ha creato questo. Ma avevano fatto una prova balistica su Scattone Ferraro? Era passato troppo tempo. Tra l'altro la prova balistica che dice che quella finestra era compatibile verrà poi annullata da altre successive perizie. Pensa che quella stessa particella che è stata la prova per cui si è iniziato a fare lì nella era sugli altri davanzali pure. No, non solo, è stata ritrovata 3 anni dopo sullo stesso davanzale, quindi era chiaramente una particella frutto di inquinamento, si parlava di freni. Però quali sono gli elementi non considerati secondo te in questa vicenda? Cioè, dato per scontato che comunque la sentenza è stata espressa, i giudici sono espressi, quindi a tutti gli effetti la giustizia ha fatto il suo corso. Quali sono i punti interrogativi che ti sono rimasti per cui c'è scritto un libro? Sì, allora, innanzitutto la valutazione di uno sparo accidentale è, secondo me, altamente improbabile da lì, perché quella finestra aveva anche una difficoltà proprio oggettiva di poter sparare per errore, nel senso che bisognava proprio esporsi e rischiare davanti a 55 finestre. La ragazza era stata colpita con una precisione da serial killer comunque. Sì, oppure può essere casuale comunque, ma però... Allora, se spari dall'aula 6 devi mirare, perché non, se tu spari dall'aula 6 per errore spari all'edificio di fronte, non spari parallelo all'edificio. Seconda cosa, le testimonianze che arrivano molto tardi e sono poi piano piano quasi a goccia, cioè Maria Chiara Lipari che ricorda prima un nome, poi un altro, poi si ricorderà altre circostanze, poi si ricorderà addirittura il tonfo del colpo di pistola, ma quello che non funziona, almeno secondo me, sono gli incroci tra la testimonianza di Maria Chiara Lipari, di Gabriella Alletto e di un'altra, Giuliana Olzai, che anche se è considerata un po' meno, è comunque un'altra che vede questi due. La sentenza come ha spiegato il fatto che questi due avessero sparato alla ragazza, visto che non c'era un movente? Non lo spiega, dice che è stato un errore probabilmente dovuto al fatto che Scattone in qualche modo mostrasse la pistola a Ferraro e gli fosse partito un colpo. È questo che mi ha colpito moltissimo, cioè si dà una condanna a Giovanni Scattone per aver sparato, nonostante è, per me, per quanto l'ho visto io, impossibile sparare per errore e sparare a Marta per errore. Io non voglio perché dire perché c'era un condizionatore molto grosso, c'era un condizionatore grande che copriva l'area di sparo e soprattutto Marta è come ti dicevo è sotto l'edificio, quindi tu devi proprio esporti. Addirittura c'è una foto nel libro che fa vedere il perito di parte che tenta di prendere la mira nel punto dove è stata colpita Marta Russo, uscendo praticamente fuori dalla finestra, cioè, alla mercé, ma soprattutto alla mercé della vista ma di ci tutti. Sono altre possibili circostanze per cui qualcun altro in quel momento poteva essere in quel posto, poteva aver sparato. Ci sono nelle carte processuali, tant'è che il procedimento non è contro Scattone e Ferraro ma inizia contro i nomi dei dipendenti della società Pultra, che era la ditta che faceva le pulizie e le fa ancora, credo. Erano armati? Loro ammettono di fare un uso di armi, diciamo, artigianali. Però trovano delle scalfitture dentro al deposito, trovano dei bossoli e loro diranno che alcune volte le provavano per vedere se funzionavano. Scusa, ma chi fa le pulizie alla Sapienza si diverte a fare il poligono dentro il sotterraneo della Sapienza? Loro parlavano di essere, che erano degli appassionati, non sono solo. E sparano dentro la Sapienza? Sì, non solo. Ma si trova anche un bibliotecario che ha l'uso, che fa un uso delle armi, che patteggerà poi una condanna perché non poteva detenere quelle armi. E questo bibliotecario avrà un alibi conferito solamente dai suoi colleghi che praticamente lo esclude immediatamente. Quello che mi ha sorpreso anche è questa mira precisa da parte del pubblico ministero e del procuratore aggiunto nei confronti dell'aula 6, quando nella stessa situazione, cioè di particella e di situazione, c'erano tante finestre, tra cui una, te ne dico, che è il bagno disabili di statistica, che era a 4-5 metri dal posto dove è stato perfettamente in asse per poter perfettamente sparare. In asse, dove il bossolo poteva cadere dentro, dentro il bagno e non fuori. Addirittura c'è chi cercherà di spiegarci che il bossolo che non è caduto di sotto perché Scattone con una manovra con una seconda mano mentre sparava difendeva il bossolo per farlo ritornare dentro. Oddio, scotta anche il bossolo appena sparato. Sì, ma soprattutto una cosa così la fa James Bond, perché cioè deve addirittura togliere il bossolo mentre cade di sotto. Insomma, ecco, in sintesi, abbiamo chiuso. Quanta gente poteva avere una pistola in quel momento? Dalle carte processuali, nel momento in cui è stato sparato. Dalle carte processuali ti dico che almeno 8 persone potevano aver sparato quel giorno. E non sono entrate per niente, diciamo, nell'area delle persone possibili per averlo sparato. Sono entrate e uscite perché poi ci si concentra sull'aula 6, sulla particella, la telefonata, Maria Chiara Libari, e da lì in poi ci si concentra solo su quello. Quindi dalle carte del processo emerge che la facoltà, la Sapienza di Roma, il primo Ateneo d'Italia probabilmente nella considerazione generale, c'era il passatempo di sparare nei sotterranei un bibliotecario che è stato comunque in qualche maniera implicato e condannato, che aveva la passione delle pistole. E anche dipendenti della ditta di polizia. Ti dirò anche un'altra cosa: a febbraio del 98 viene ritrovata nell'intercapedine del bagno del rettorato un'altra pistola calibro 22 con un proiettile in meno, con la matricola a brasa, e lì, questo è un colpo di scena, lì si dirà che forse quella pistola poteva essere quella che aveva sparato a Marta, ma forse era quella che aveva sparato a Giorgiana Masi. Ecco il collegamento tra le due storie. Beh, ma questo mi sembra un romanzo giallo. La pistola che ha sparato a Giorgiana Masi poteva essere seppellita in un intercapedine della Sapienza, e quella che ha sparato anche a Marta Russo. E probabilmente fatta ritrovare ad arte, perché la perdita, io non credo nelle casualità, la perdita fatalità di quel bagno, dove arrivano poi due operai e aprono e trovano una pistola calibro 22 che è compatibile, attenzione, non è certo, ma è compatibile sia con quello di Marta che con quello di Giorgiana. Ci sono possibilità che sia in qualche maniera riaperto il processo? Per come la vedo io, no, a meno che uno di quegli delle persone che, cioè la persona che ha sparato, dica sono stato io. E forse non basterebbe neanche. Ti ringrazio Mauro Valentini, ci hai dato dei motivi in più per riflettere, che naturalmente non cambieranno nel corso della storia, nel corso degli eventi processuali, ma riflettere è sempre un buon esercizio. Ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi.